La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 17 aprile 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Mentre non è stata comprovata nessuna relazione diretta fra celibato e pedofilia, mi è stata confermata anche di recente la relazione tra omosessualità e pedofilia. Queste sono le dichiarazioni di qualche giorno fa del cardinale Bertone, numero 2 del Vaticano. Ora, partendo da queste dichiarazioni, che poi andremo a dimostrare se sono vere oppure non sono vere, cercheremo di parlare in questa puntata di sessuologia clinica e ne parleremo col professor Giuseppe Angelini, medico specialista in psichiatria e professore presso la clinica psichiatrica dell'Università di Torino. Buongiorno professor Angelini. Buongiorno. Professor Angelini, all'inizio abbiamo 100 parole per, come dire, dare il là alla nostra trasmissione. Quindi in 100 parole iniziali le voglio chiedere che cos'è e di cosa si occupa effettivamente la sessuologia clinica, che è poi l'argomento di cui andremo a parlare in tutta la trasmissione. Beh, dunque, intanto bisogna subito dire che la sessualità è una dei pilastri che riguardano la felicità o l'infelicità dell'esistenza di ogni individuo, cioè che per realizzarsi questa felicità deve avere appunto una buona realizzazione in ambito lavorativo, delle amicizie e dell'amore, e dunque è molto importante avere dei rapporti soddisfacenti di comunicazione che si esplichino poi anche con dei rapporti sessuali. Professor Angelini, a questo punto ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale. Al nostro ritorno, nella prima parte della trasmissione, cercheremo di affrontare effettivamente che cos'è, cosa studia, quali sono i problemi affrontati dalla sessuologia clinica, mentre nella seconda parte della trasmissione parleremo di quelle che scientificamente vengono dette le parafilie, quindi le devianze sessuali, e vedremo effettivamente se quella dichiarazione fatta da Bertone è una dichiarazione vera oppure è una dichiarazione falsa. A questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torniamo in studio e poi di nuovo a Caccia al Fotone. Time. bentornati in studio, cari radioascoltatori, all'interno di Caccia Fotone, raggiungibile dal sito www.cacciafotone.it e raggiungibile anche dal sito attraverso lo streaming di Radio Città Fucico, che è www.radiocittafucico.it. In questa puntata siamo al telefono col professor Giuseppe Angelini, professore presso la clinica psichiatrica dell'Università di Torino, e con lui stiamo parlando di un argomento che non avevamo mai trattato durante i 5 anni passati di Caccia Fotone, che è appunto la sessuologia clinica. Lo trattiamo partendo da alcune dichiarazioni fatte qualche giorno fa dal cardinale Bertone, delle dichiarazioni, come detto ad inizio trasmissione, che legavano in qualche modo l'omosessualità alla pedofilia. Queste dichiarazioni poi le andremo a confutare nella parte finale della trasmissione, però adesso, per cominciare, andiamocele ad ascoltare. Le dichiarazioni sono in lingua spagnola. Psicólogos y muchos psiquiatras han demostrado que no hay relación entre celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado, me han dicho recientemente también, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia. Professor Angelini, a questo punto andiamo finalmente a cominciare, quindi le chiedo, in che modo è nata la sessuologia clinica, quando è nata e soprattutto per mano di chi? Beh, innanzitutto ci sono i grandi maestri della sessuologia, in primis Masters, che era un ginecologo americano che con la moglie studiò moltissimi casi proprio sul campo, a cliniche dei coppi, eccetera, eccetera. Poi c'è stata anche la Kaplan più recentemente, che poi è morta di cancro al seno, sempre un'americana, che ha scritto Disorders of Sexual Desire, puntando il dito sulle problematiche riguardanti il desiderio, che secondo lei spiegavano anche poi molti disturbi quantitativi, tipo appunto anorgasmia, impotenza e altri disturbi di uomini e donne. Mi spiega, professore, come operate per identificare alcuni disturbi sessuali e soprattutto come utilizzate i campioni statistici sempre per andare a fare le vostre indagini qualitative? Dunque, la ricerca in sessuologia è prevalentemente basata sulla somministrazione di test, dei questionari, con moltissime domande che vanno dai primi ricordi del soggetto. C'è da dire che spesso queste metodiche si prestano a critiche, perché è molto difficile che la persona riesca a tradurre nelle domande che vengono poste col test tutte le emozioni e i vissuti che riguardano la sua esperienza sessuale. E quindi ci sono anche delle ricerche, peraltro non ancora con dei buoni risultati, che riguardano il piano organico, ma questo soprattutto per ciò che riguarda magari le perversioni o il transessualismo. Si cerca di capire se ci sono dei motivi organici per cui vengono poi fuori delle manifestazioni patologiche nell'ambito della sessualità. Senta, professore, lei l'ha accennato un pochino nella scorsa risposta, quindi vorrei che lo precisasse meglio. Quanto possiamo definire affidabile un test fatto attraverso delle domande e quante modalità ci sono per fare dei test a campione e in che modo si differenziano? Sì, io sono convinto che invece un'analisi adeguata delle problematiche sessuali di una persona si faccia di più con dei colloqui clinici o delle sedute, magari più di una, dove allora si riesce a rilevare veramente le cause di questo disagio, e quindi si invoca quello speciale clima che interviene nell'ambito di una seduta, che è appunto il transfert e il controtransfert, e quindi l'empatia che si viene a realizzare tra curante e curato, e che dà veramente la misura dell'eziologia, della causa del disturbo. Senta professore, mi faccia capire meglio, facciamo un'ipotesi. Domani vengo da lei e le confido che ho un certo disturbo sessuale. Lei mi sottopone dei test, questi test in qualche modo rivelano che quel disturbo sessuale è vero e non è falso, ma in quale modo questi test riescono a definire la causa di questo mio disturbo e in che modo questi test possono poi definire le modalità di cura di questo disturbo? Perché forse è questo che interessa di più. Dunque, i test che noi comunque somministriamo quando si tratta di disturbi sessuali piuttosto gravi, no? Sono il test di Rorschach, che è un test di personalità molto preciso, e lì si vede anche la buona identificazione col proprio sesso, si vede il rapporto con le figure parentali, si vede il rapporto che uno può instaurare con l'altro sesso in relazione ai suoi vissuti infantili. Quindi il test di Rorschach forse è quello che ci dà la misura più precisa, infatti è un test di personalità. Professore, voglio fare un'altra domanda fra le tante che le voglio fare, che è un po' quella chiave, quindi il cosiddetto collegamento mente-corpo. Quali sono le parti del cervello che si attivano in presenza di un forte piacere e quali sono, tra virgolette, gli stati mentali che provocano un comportamento in luogo di un altro? Innanzitutto questa dicotomia mente-corpo è ormai caduta e oggi si parla più di una situazione nella quale la mente influenza il corpo e viceversa, quindi si fa una diagnosi circolare, nel senso di Kandel, cioè anche le parole stesse influenzano l'attività corporea, però proprio nell'ambito della sessualità i disturbi sessuali vengono sistemati e dunque un soggetto maschio che vada a un incontro con una ragazza pieno di timidezze, di paure, eccetera, eccetera, certamente ha una vita sessuale insoddisfacente, può avere una rapidità eiaculatoria, può avere una sorta di disfunzione erettiva, e quindi tutte queste cose possono inquadrarsi nel termine somatopsichico o psicosomatico, quindi c'è proprio una interrelazione tra le due cose. Senta professore, fino ad ora lei ha parlato di problemi sessuali che tendenzialmente sono dei problemi sessuali all'appannaggio degli uomini, però lei ha anche detto all'inizio che i problemi sessuali esistono sia per gli uomini sia per le donne, e quindi la mia domanda fondamentalmente è come mai sono tendenzialmente gli uomini ad andare dal sessuologo e come mai quindi le donne sono più reticenti a svelare i propri problemi sessuali davanti a qualcuno. Guardi, le donne hanno meno attitudine a chiedere al sessuologo aiuto per le loro problematiche sessuali, perché sono più abituate a sopportare magari un'anorgasmia. Molte donne hanno questo problema, cioè faticano a raggiungere l'orgasmo durante il contenimento del pene nella vagina, però alla lunga non chiedono molto. Nella mia vita professionale, ahimè ormai lunga, forse due volte donne con un problema di frigidità, che è rarissima e che è collegata ad abusi infantili di solito che hanno subito queste donne, e poi invece per problemi di anorgasmia la domanda è stata un po' più frequente, ma sono assai difficili da correggere, perché non c'è l'equivalente dei farmaci maschili nell'ambito femminile che possa aiutare in questo disturbo. È stato studiato molto, sono state proposte dei farmaci, ma non esiste, non c'è questo farmaco, per cui la donna anorgasmica si può curare con tentativi di terapie che passano poi attraverso anche un autoerotismo, ma però non c'è un farmaco. I tedeschi danno a volte del testosterone, che nella donna dà un aumento del desiderio. Il testosterone, che è un tipico un tipico ormone maschile nella donna dà questo, però si rischia di avere degli effetti collaterali come un aumento della peluria e quindi bisogna stare molto attenti a dare questo farmaco. Professore, a questo punto ci fermiamo per un attimo, andiamo a ascoltare un pochino di musica, poi torniamo in studio e quando torneremo in studio parleremo espressamente di perversioni sessuali o quelle che vengono chiamate in gergo le cosiddette parafilie. E a quel punto poi cercheremo di collegare o smentire la dichiarazione che abbiamo ascoltato in inizio trasmissione appunto del Cardinal Bertone. Musica e poi torniamo in studio. Bentornati in studio cari radioascoltatori in questa puntata in cui stiamo provando a parlare in maniera speriamo delicata di sessuologia clinica e ne stiamo parlando col professor Giuseppe Angelini, professore presso la clinica psichiatrica dell'Università di Torino. Professore, nella seconda parte della trasmissione, come promesso, parleremo di quelle che in termine tecnico vengono chiamate le cosiddette parafilie. Che cosa sono? Come le possiamo definire le parafilie? Le parafilie sono delle fantasie, degli impulsi sessuali o comportamenti ricorrenti che danno un intenso eccitamento sessuale e che riguardano oggetti inanimati, la sofferenza o l'umiliazione, bambini o persone non consenzienti. Queste sono le definizioni. La definizione del DSM-4 che è appunto il manuale di riferimento di tutti i disturbi psichiatrici ed anche sessuali. Senta professore, prima di andarle un po' a definire, io sono andato a guardare sulle definizioni, quindi sul dizionario, che cosa mi dice alla parola parafilia. E mi viene detto che è un atteggiamento deviato che si caratterizza nell'ideazione e nel perseguimento di comportamenti distorti del senso comune. Però il senso comune non è una categoria razionalmente definibile. E quindi se consideriamo anche il senso comune che varia nel corso del tempo, le parafilie effettivamente come possono essere definite? Ma sai, il senso comune, bisogna vedere, appunto, si riferisce forse al dato statistico, e dunque statisticamente il senso comune è quello di due soggetti, maschio e femmina, che si confrontano e hanno un rapporto sessuale. Non è da riferire a, non è una questione statistica, il problema è che questi soggetti hanno impulsi sessuali, eccitamento sessuale molto forte con degli oggetti inanimati, vedi un soggetto che è un feticista, oppure un sadico che ha un piacere umiliando il partner, o un masochista che ha un piacere nella sofferenza personale, o addirittura soggetti di un'aggressività incredibile che seducono degli inermi, dei bambini o persone che non sono consenzienti. Questa è la vera natura della parafilia, non è da riferire al senso comune, io credo. Questa è poi la definizione del DSM-4, che è appunto il manuale di riferimento per gli psichiatri di tutto il mondo. Senta, a questo punto, se potessimo fare un elenco, quante sono e come le possiamo definire? Ma dunque, sono circa 8-9, c'è il sadomasochismo, il voyeurismo, la pedofilia, il frotteurismo, il feticismo e qualche altro che forse mi dimentico, ecco. Direi che proprio l'essenza di queste perversioni è l'aggressività verso l'altro sesso, tant'è vero che spesso anche nel voyeurismo si cerca di carpire qualche cosa all'altra persona senza che lei se ne accorga in alcune di queste. Vede il frotteurismo, che sono soggetti che nei pullman o altrove sfregano i genitali contro magari il sedere di donne senza che loro se ne avvedano. Quindi c'è un'intenzione aggressiva e trasgressiva, aggressiva verso l'altro sesso e trasgressiva rispetto, se vuole, al senso comune. Senta professore, nel fuori onda ci siamo anche detti che le parafilie, quindi le perversioni sessuali, sono tendenzialmente molto di più all'appannaggio degli uomini rispetto alle donne. Ma il motivo effettivo qual è? Io credo che tra le ragioni, appunto, dell'aumento veramente notevole di questi atteggiamenti parafilici, che peraltro per essere tali devono durare almeno 6 mesi, perché talvolta quando si è in preda a stress o possono succedere episodi isolati. Il sesso femminile invece prende altre vie, la perversione femminile prende la via del disturbo alimentare oppure della maternità. Ci sono dei libri scritti sulla perversione della maternità, quindi atteggiamenti molto sottili che la madre o la donna in generale, ci sono delle analisi trigenerazionali dalla nonna alla figlia e ai nipoti sull'aggressività femminile, appunto, nell'ambito della famiglia, e quindi questa perversione della maternità si riferisce appunto a quello, a questi atteggiamenti anche sottili, no, di aggressione verso i figli. Quindi lei le definirebbe effettivamente come delle patologie personali, magari derivate da alcune condizioni a contorno, tra cui la famiglia, l'educazione, la storia personale, piuttosto che delle patologie magari che dipendono da scompensi neurochimici? Mi viene in mente per esempio una depressione derivante dall'abbassamento di serotonina. No, è più una questione, appunto, di soggetti che incamerano grandi quantità di stress e dunque di aggressività. Tanto più elevata è la frustrazione, tanto più elevata è l'aggressività, e viene scaricata in varie direzioni. Però questo perché mai può succedere ad alcuni e non ad altri? E perché in uno, a parità di stress, cioè è possibile valutare, in uno c'è una parafilia e in un altro no? E lì bisogna poi riandare a capire qualche cosa del passato. Poi vede, c'è un altro fatto, che questi soggetti parafilici purtroppo sono quasi sempre egosintonici, cioè, come dicevamo fuori onda, sono soggetti che non si fanno curare con grande frequenza, perché egosintonici vuol dire che loro si accontentano del loro disturbo, possono ripeterlo quando vogliono, pensi a un voyeurista o un soggetto appunto, o in genere hanno una struttura ossessiva di personalità costoro, e quindi si potrebbe anche intervenire con dei serotoninergici, però non si fanno curare, però ce ne sono che si fanno curare. Senta, nella parte iniziale abbiamo parlato un pochino del cosiddetto rapporto mente-corpo, e lì mi diceva appunto che questa grossa distinzione che una volta c'era, ora non c'è più, fondamentalmente perché il corpo viene studiato come un insieme complesso composto da mente e corpo. Ma in alcuni soggetti parafilici si è trovato l'attivazione di alcune aree del cervello in luogo di altre? In particolar modo, si riesce a capire con alcune aree del cervello attivate se quel soggetto è affetto da un certo tipo di patologia? Sì, questa è la grande scommessa delle neuroscienze, che vogliono vedere che cosa si attiva, però vede, vanno a cogliere sempre le metodiche che sfruttano diciamo macchine o strumentazioni per vedere l'area del cervello che si attiva durante un certo stato di coscienza, mentre tutto quello che fa la sessuologia è tutto improntato sull'analisi del soggettivo, e questa è la grande differenza. Adesso le neuroscienze si buttano sullo studio della coscienza, allora fanno passare davanti al soggetto, non so, un numero in fretta o una cosa, dice: ecco, vedete, adesso si è attivata l'area occipitale o l'area, questa è la coscienza. Ma non è la coscienza, quello è qualche cosa che capita, sia se lei fa passare davanti appunto un numero o una donna nuda, o un, è qualche cosa di oggettivo che si coglie con appunto le strumentazioni. Ma poi il soggettivo, torniamo a quello che dicevamo all'inizio, se mai si può avvicinare attraverso un atteggiamento empatico nel rapporto curante-curato. Senta, le faccio l'ultima domanda prima di concludere tutta la trasmissione di Cacciafotone. Ora, nel corso di tutta la trasmissione abbiamo sentito parlare di sessologia clinica, abbiamo capito come si studia, abbiamo capito i problemi sessuali, abbiamo capito le cosiddette parafilie, quante sono, come si possono classificare, e a questo punto torniamo alla domanda iniziale, quindi torniamo alla dichiarazione del cardinale Bertone, che collegava insieme l'omosessualità, che è una tendenza sessuale, e la pedofilia, che invece è una perversione sessuale. Ora, visto che ne abbiamo parlato tutta la trasmissione, le due cose sono sovrapponibili oppure no? Beh, adesso io non voglio, diciamo, parlo solo dal punto di vista medico, laico, anche se sono cattolico, non c'è nessun collegamento, anzi, mentre l'omosessualità da molti anni è stata tolta dalla patologia, quindi nel manuale che le ho appena citato, il DSM-4, non c'è più assolutamente traccia dell'omosessualità, la pedofilia rimane in prima fila, e già nella definizione di parafilie che abbiamo dato c'è appunto questo atteggiamento di adulti che approfittano di persone inermi o non consenzienti, e quindi addirittura i medici si rifiutano di curare i pedofili, tanto è orribile questa forma di patologia. Quindi io credo che non ci sia nessun rapporto, anzi, ci potrà essere come sempre un'eccezione, ma non c'è un rapporto continuativo assolutamente, non c'entra nulla. Non capisco nemmeno perché il cardinale abbia detto questo, probabilmente ha un'esperienza nell'ambito della Chiesa, ma allora non va certo generalizzata tutta la società. Professore, a questo punto, dopo queste sue parole, si conclude Cacciafotone. Io intanto la ringrazio per la pazienza con cui ha voluto rispondere alle nostre domande. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fujiko. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professore. Arrivederla a lei.